Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. I saluti vi arrivano anche da Mira Lucchetti, Isotta Scenna in redazione con me, Gianmarco Ferronato in regia. Come sempre vi ricordo le coordinate per interagire con noi, per commentare, porre domande o critiche, la mail nessunluogo@radio24.it, gli sms, siate sintetici, al 349-238-6666, mettete becco, cioè cinguettate su Twitter nessunluogo24 e infine cercateci su Facebook, il profilo è nessunluogoelontano-radio24. Quest'oggi, a Nessun Luogo Lontano, staremo in Europa per tre storie che intrecciano economia, ecologia, spiritualità e austerità. Seguitemi allora, partiamo dalla Grecia. Partiamo dalla Grecia perché quest'oggi il quotidiano Le Monde, uno dei più importanti quotidiani francesi, riportava la notizia che il governo greco ha votato una legge che dà maggiori poteri al Ministero del Turismo e in buona sostanza, in ultima istanza, permetterebbe la costruzione di grandi hotel, di enormi complessi turistici, anche a discapito dell'ecologia e dell'ambiente. La notizia è particolarmente succulenta, golosa, perché da un lato il WWF ovviamente si è schierato e ha levato gli scudi, dall'altro bisogna ammettere che il turismo è probabilmente forse la risorsa più solida che rimane alla Grecia. E peraltro i grossi complessi turistici già esistono. Le Monde ad esempio cita il caso degli hotel di lusso della costa Navarino, siamo alla costa ovest del Peloponneso, quei lussuosi grandi complessi che attirano la clientela ricca e denarosa soprattutto dalla Russia. E allora il mio buongiorno a Vicky Markaki, giornalista greca freelance. Vicky, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, questo dibattito, rilanciamo il turismo a discapito dell'ambiente, appassiona soltanto i giornalisti francesi, evidentemente, o europei, oppure anche in Grecia si discute di questo aspetto? Ma sai, io credo che la reazione dei greci sarà stata magari. Parliamo di un paese, di un popolo che ha la fame, ma veramente ha la fame. Qualsiasi notizia di qualcuno, di qualcosa che può attirare investimenti, che può portare lavoro, che può portare lavoro all'edilizia, lavoro al turismo, turisti con un portafoglio ricco, non può che creare un senso di sollievo. Non credo che sono state reazioni di preoccupazione per l'ambiente, anche perché sono anni che la Grecia moderna, io credo anche questa Grecia disperata, ha un occhio di riguardo per quel che riguarda l'ambiente, specialmente l'ambiente vicino al mare. E sia la costa Navarino, così come le coste di Calcidica, sono anni che hanno già un'edilizia turistica di grandi alberghi di lusso, specialmente la Calcidica ha avuto da sempre l'edilizia dei grandi alberghi, dei grandi gruppi di alberghi di lusso e dei residence turistici altrettanto di lusso, non ha mai avuto altro tipo di edilizia, non sono le piccole isole con le casette, con i piccoli alberghi. Allora credo che una legge che vuole attirare l'albergo supermoderno dove entri dentro e non esci più non può essere fatta in maniera selvatica. Sì, siamo stati nel passato molto, molto non attenti all'ambiente, ma non credo che la Grecia di oggi, anche se nella disperazione può dimenticare che l'unica e ultima risorsa che ha sono il suo ambiente e la sua bellezza naturale. Sì, quindi insomma dici attenzione a non sacrificare, a non immolare sull'altare della ripresa economica anche quello che è il patrimonio. Credo che sì, ci saranno incentivi per attivare gli investimenti dei grandi gruppi, ma non posso credere che non ci sarà l'occhio attento su che tipo di edilizia si farà. Ecco, è un turismo che non mi piace, non piace neanche a me personalmente, però è un turismo che evidentemente piace agli europei che hanno da spendere, e ancora di più piace ai russi e ai cinesi, sì, a chi in questo momento è in grado di spendere. Adesso ci arriviamo al tipo di turismo che sta andando in Grecia in questa calda estate, non prima di aver ricordato che comunque il WWF stesso ricorda come in generale l'ultimo budget statale greco ha ridotto al 2,5% le somme destinate annualmente proprio alla tutela dell'ambiente. Questo sempre in omaggio alla ricetta di austerità per risollevarsi dalla crisi. Vicky, come sta andando la stagione turistica in Grecia? C'è il pienone, su questo non c'è dubbio, ma è un pienone strano. Le voci parlano di un turismo mordi e fuggi, di gente che arriva per una settimana, per di più con pacchetti prepagati, il che significa che lascia questo che ha da lasciare nell'albergo che ha prenotato, mangiando dentro, cioè solo nel nucleo che ha già prenotato. Sono sempre di meno i turisti che vanno alla ricerca di quello che gli piace, i turisti che veramente lasciavano soldi, perché lasciavano soldi uscendo a mangiare fuori, comprando quello che gli piaceva, i turisti che non stanno attenti a non spendere niente di più di questo che avevano prefissato. Questo è un turismo che certo nel budget del paese serve, nel budget di chi vive avendo investito nel piccolo albergo non di lusso ma ricercato, fatto con amore, non lascia niente. Grazie Vicky Marcacchi per questa fotografia dell'attuale stagione turistica greca, con qualche tono di malinconia. Grazie comunque per il tuo lavoro, buona giornata Vicky, a presto. Altrettanto. Infatti un'ascoltatrice su Facebook dice: sì, di solito i turisti che conosco cercano le piccole isolette con i piccoli alberghetti bianchi, non so quanto questi immensi hotel possano attirare questo genere di turisti, ma Vicky faceva notare come questi grossi complessi poi siano gestiti dai grandi tour operator che, ad esempio dalla Russia per citare un caso, portano i turisti. Forse per il piccolo ristoratore, il piccolo proprietario d'albergo, è più difficile arrivare a quel livello di turismo. Allora, quest'oggi vi avevo preannunciato un viaggio tutto europeo, adesso noi andiamo a nord, andiamo in Romania, perché qua adesso abbiamo parlato della costruzione di grandi alberghi e adesso invece vi racconto la storia della costruzione di 10 chiese nuove ogni mese e di una cattedrale dall'altezza record, storia di fedeli nelle campagne romene, storia di fondi governativi che tanto fanno infuriare una parte della società civile, soprattutto i più giovani, andiamo in Romania. Pe tine, Mântuitorul Hristos, cel ce te-ai întrupat și de ceruri nu te-ai despărțit, în glasuri de cântări te mărim. E l'avevo preannunciato su Facebook, mischiamo sacro e profano in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Intanto benvenuta a Alina Aria, sicuramente pronuncerò male il cognome, mi perdonerà. Alina, giornalista per la rete TV rumena Antena 1, direttrice del giornale Actualità Tea Magazine. Buongiorno. Quanti errori ho fatto, Alina? No, sì, la pronuncia delle testate è giusta, il cognome è Harja, però insomma non ti preoccupare, in fondo anche i rumeni qualche volta si sbagliano. Chiedo venia. Pronunciarlo. Sì. Allora, Alina, partiamo da questa notizia, che è un numero, è una statistica: 10 chiese nuove costruite ogni mese. Che cosa sta accadendo ai rumeni? È una cosa nuova? C'è tutto un afflato spirituale che sta pervadendo il popolo, oppure è una storia che abbiamo già letto? Beh, è una tendenza a partire dal dopo 89, dopo la rivoluzione romena, e da come motivazione un po' anche questa liberazione da un regime che per di più cancellava le chiese, e in cui la religione non era espressamente vietata ma comunque a malapena un po' tollerata, e quindi questa ricostruzione che è venuta dopo la rivoluzione è un po' un segno di ribellione di quella generazione che ha vissuto sotto oppressione per tanti anni. Ecco, prima di analizzare questo fenomeno che affonda le radici, come stiamo capendo grazie a te, anche nella storia recente, nella storia romena, noi ogni tanto amiamo dare i numeri, e allora lo facciamo anche questa volta. "21 sono i milioni di abitanti della Romania, 169,4 i miliardi di dollari del PIL, 8.420 dollari nel reddito nazionale lordo pro capite, 3,3% è il tasso di inflazione del 2012, 75 sono gli anni di vita media, 86,8% la percentuale di ortodossi nel paese, 7,5% quella dei protestanti, 4,7% i cattolici, 10 è il numero di nuovi edifici religiosi che sorgono ogni mese nel paese, oltre 100 sono i milioni di euro che la Chiesa ortodossa riceve annualmente dal governo romeno. 400 milioni di euro è invece il costo della gigantesca cattedrale che il patriarca romeno sta costruendo a Bucarest di fianco al palazzo di Ceausescu. 125 sono i metri d'altezza previsti che ne faranno la chiesa ortodossa più alta del mondo." Nuove chiese in Romania a ritmo di 10 ogni mese. Con Alina Argia stiamo cercando di capire meglio dove affonda, anche storicamente, le sue radici questo fenomeno, e soprattutto quale generazioni coinvolge. Ecco Alina, la domanda è questa: la percentuale di fedeli giovani è alta o non è alta? Poi spiegami agli ascoltatori perché tentiamo di inquadrare anagraficamente anche il fedele romeno. Beh, intanto credo che la maggior parte è coinvolta la popolazione over 40. La ragione è anche molto semplice: sono, come dicevo prima, sono stati per tanto tempo sotto un regime che di fatto non gli permetteva di avere un rapporto molto spirituale, e quindi a questo punto, dopo la rivoluzione, è anche un segno di liberazione per loro. Per quello che riguarda invece le giovani generazioni, un po' di meno, perché succede più o meno quello che succede anche in Italia con i fedeli cattolici: se c'è una figura carismatica, va bene, si segue, ma non c'è un rapporto molto legato alla Chiesa, tant'è che quando si è trattata della costruzione di questa mega cattedrale sono stati i giovani romeni a protestare contro questa decisione, un po' per il fatto che quei soldi potrebbero essere investiti in un altro tipo di servizi, parlo di scuole, ospedali, sì, e così via. Sì. 10 nuove chiese costruite ogni mese in Romania, ma pensate che dopo la caduta di Ceausescu il ritmo era la costruzione di nuove chiese ortodosse, una ogni 3 giorni. Questa tendenza ci permette di analizzare, di interrogarci quest'oggi in Nessun Luogo Lontano sul rapporto che esiste fra la chiesa ortodossa romena e il potere politico. Quel simbolo, quella cattedrale che è in fase di costruzione proprio a fianco al Palazzo del Popolo, che potrebbe essere, notate bene, il più alto edificio religioso di tutta l'Europa, con i suoi 125 metri, ebbene quella costruzione, quel cantiere che costa svariate centinaia di milioni di euro, ha attirato le critiche dei giovani romeni che dicono: beh, questi soldi potremmo spenderli magari per uno ospedale, per esempio. Siamo con Alina Harja da TV Rumena Antena 1, fra le altre cose. Alina, ben ritrovata qui con noi a Nessun Luogo è Lontano. E iniziamo a entrare tra le pieghe di quel rapporto così controverso tra i preti ortodossi in Romania e il potere politico. Innanzitutto ti chiederei questa cosa: Come funziona economicamente? Cioè lo Stato in che modo dà i fondi alla Chiesa? Beh, allora ogni anno vengono dati dei fondi alla Chiesa ortodossa sia per il pagamento degli stipendi dei preti, è strano, sono una specie di impiegati statali a questo punto, e da un'altra parte anche per la ricostruzione delle chiese. Il motivo è un po' il fatto che il regime comunista ha confiscato tantissimi delle proprietà della Chiesa, e quindi non potendolo ridare effettivamente quelle proprietà si aiuta a ricostruire di nuove. Questa almeno è la scusa ufficiale ed è quella che dice sempre anche la Chiesa ortodossa. Però per esempio nel 2013 la Chiesa ortodossa ha ricevuto dallo Stato rumeno solo per la ricostruzione di alcune chiese o per la costruzione di chiese ex novo 36 milioni di RON, che sarebbero all'incirca 9 milioni di euro. Ma in tutto sono sui 100 milioni, mi pare, di euro all'anno solo per gli stipendi e così via. Quindi sono delle cifre enormi che vengono date allo Stato proprio in virtù di queste, diciamo, di ridare indietro anche una parte di quello che è stato tolto alla Chiesa. Un'altra parte però dei fondi vengono dai fedeli, e un'altra parte anche dai consigli locali e dalle amministrazioni locali. E certo, questo ovviamente, quando c'è denaro di mezzo, è normale che tra la politica e la Chiesa è normale, diciamo fisiologico in qualche modo, che nasca anche un altro tipo di rapporto, quindi anche quello che riguarda l'influenza sugli elettori. È normale che a un certo punto, cioè non sarebbe corretto, però è fisiologico, accade. Che accada, che al momento in cui qualcuno si dimostra più generoso nei confronti della Chiesa, anche il prete sia più benevolente rispetto al politico tal dei tali. E parliamoci chiaro, in termini di immagine, di costruzione del personaggio politico, per il politico è anche molto conveniente, anche molto facile, ecco, promettere dei fondi pubblici in cambio di voti. Sì, e anche avere l'endorsement di personalità religiose, chiaramente, come dire, giova al carisma. Fra l'altro, vi volevo riportare la posizione di Remus Cernea, il leader dei Verdi, molto critico anche recentemente su questo scenario. Dice: molti politici ricevono sostegno elettorale dai preti durante le campagne in cambio di questi corposi fondi. Insomma, controverso questo rapporto fra Stato e Chiesa. E è intervenuto recentemente anche il ministro degli affari religiosi, Opaschi, che ha ammesso che c'è proprio un rapporto tra politici e la Chiesa, soprattutto durante le campagne elettorali, e questa, dice, non è una buona cosa. Beh, ovviamente i fedeli sono anche più facilmente influenzabili dalle figure religiose, quindi è normale che in qualche modo possono avere una parola molto influente. E quello che per esempio per un politico significherebbe una campagna che le costerebbe delle cifre enormi, o comunque un'attività politica molto di comunicazione, di raggiungimento dell'elettorato molto intensa, la risolve molto più facilmente con un rapporto privilegiato con un prelato. Quello che io mi auspico però è che non diventi generalizzato. Certo, all'origine si dovrebbe rimanere, no? Dio e gli affari spirituali da una parte e ovviamente il coinvolgimento politico dall'altra, però anche qui purtroppo anche i preti sono umani. Sì, fra l'altro io devo correggermi perché ho detto l'edificio religioso più alto in Europa, in realtà sarà la chiesa ortodossa più alta, perché il cupolone di San Pietro per esempio è a 133 metri. Questo è il complesso intreccio tra chiesa ortodossa e politica in Romania. Grazie quindi a Lina Harja per essere stata con noi, buona giornata, buon grazie lavoro. Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata. E peraltro la Romania, che inizia a vedere la luce, inizia a uscire dal tunnel della ripresa economica, fondi europei che arrivano sempre di più nel paese, e non solo cantieri di chiese, ma cantieri anche di altri edifici, di fabbriche, sono un po' dappertutto nel paese, segno che lì si inizia a rivedere qualche segnale di ripresa economica. Poi poi un ascoltatore mi segnala di chiacchierare piuttosto della discarica di Glina, discarica di rifiuti a Bucarest. Quella vicenda, se ricordo bene, c'era tutto un intreccio, rifiuti campani, la camorra, sì, perché no, ce ne occuperemo, abbiamo tempo fino a fine agosto, ma mi interessava quest'oggi partire da questo dato apparentemente, come dire, banale, insomma, costruzione di nuove chiese, per andare invece a fotografare quella che è l'intreccio tra politica e spiritualità in Romania. Adesso continuiamo il nostro viaggio tutto europeo, dalla Romania andiamo invece in Bulgaria. Perché nella generale timida attenzione dei media, da quasi due mesi va avanti la protesta dei cittadini bulgari che hanno occupato piazze e strade. Le poche volte che i giornali nostrani se ne sono occupati hanno detto Taksim, la Taksim dimenticata, la Tahrir d'Europa. Forse niente di tutto questo. Cosa semmai? Lo chiedo a Francesco Martino di Osservatorio Balcani. Francesco, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, se non è Taksim, se non è Tahrir, che cos'è questa protesta che da due mesi va avanti? Sì, direi che molti dei paralleli che sono stati fatti in questi due mesi con le altre piazze della protesta sono piuttosto poco rispondenti alla realtà sul campo. Di certo, se vogliamo trovare un legame, se non altro con Taksim, diciamo che in Bulgaria, così come in Turchia, c'è la richiesta da parte della piazza di trasparenza e responsabilità da parte dei governanti nei confronti dei cittadini. Cioè, i cittadini bulgari ritengono che nonostante 20 anni di transizione verso il regime democratico, fino ad oggi non sono riusciti ad ottenere responsabilità da parte dei propri governanti. Ed ecco perché da ben due mesi una protesta sicuramente senza precedenti in un paese solitamente abbastanza quieto come la Bulgaria rimane in piazza e non dà segno di voler fare passi indietro, vuole in questo momento le dimissioni del governo e vuole un sistema politico che risponda di più a quelle che sono le esigenze di una società moderna ed europea. Allora, con Francesco Martino di Osservatorio Balcani e Caucaso tentiamo adesso di fotografare questa piazza di cui sentiamo gli slogan e le urla e anche tutta la rabbia. Da lato ho letto che, un paio di settimane fa alcuni parlamentari sono stati praticamente presi in ostaggio perché è stato fatto un cordone di manifestanti fuori dall'assemblea e quindi questi sono rimasti ore e ore assieme ai giornalisti praticamente rinchiusi in Parlamento. Dall'altro leggevo anche di bizzarre e colorite espressioni di protesta e per tenere la posizione ci sono anche dei cittadini che fanno yoga lì per insomma stare lì, insomma, e lo yoga insegna, no? La posizione si tiene per ore, quindi scherzi a parte, Francesco Martino, che piazza è questa? Ci sono giovani, ci sono meno giovani, ci sono disoccupati, è politicizzata, chi sono? Ma diciamo che in queste settimane due sono stati gli elementi più spesso portati all'attenzione da parte dei media sia locali che internazionali, quello cioè della natura di classe media da parte dei protestanti e della loro natura urbana. Due elementi sicuramente visibili che però non spiegano in modo esaustivo un fenomeno che comunque è molto complesso. Fondamentalmente questo nucleo urbano e di classe media è sicuramente alla testa delle proteste. Ecco tra l'altro come spiegare queste forme nuove per la Bulgaria e particolarmente colorate, spesso originali di protesta che nel paese non si erano viste negli anni precedenti. In qualche modo da questo punto di vista c'è stato un legame anche con Piazza Taksim, questa esplosione appunto di una protesta nuova, e anche alcuni simboli sono passati dalla vicina Turchia alla Bulgaria, tra cui ad esempio un pianoforte in piazza con cui simbolicamente dire al governo: noi siamo pacifici, siamo non violenti, ma non intendiamo muoverci finché non avremo quello che chiediamo. Quindi questi sono elementi molto forti. C'è poi da ricordare comunque anche un elemento di tipo economico. La Bulgaria continua a essere un paese in forte difficoltà all'interno del contesto europeo, in cui già difficoltà interne sono state rese più complicate dal generale clima di depressione dell'economia europea. Quindi sicuramente questo è un altro elemento che porta la gente in piazza e che ha determinato una resistenza così imprevedibile delle proteste. Ecco, se il pianoforte è il simbolo di questa protesta pacifica e anche creativa, loro dicono: insomma, noi siamo qua in pace, suoniamo e protestiamo. Dall'altra parte il pianoforte è il simbolo di un governo bulgaro che, perdonatemi la battuta, ma un po' se la canta e se la suona, perché sta facendo spallucce a questa massiccia protesta. Lo ricordo, dura da quasi 2 mesi. Silenzio assoluto da parte del governo. E in questo viaggio tutto europeo di quest'oggi, a nessun luogo lontano, siamo partiti dalla potenziale costruzione di grandissimi alberghi sulla costa greca, misura anticrisi per rilanciare il turismo. Siamo poi andati a Bucarest, dove si sta costruendo la più grande chiesa ortodossa di tutta l'Europa, segno di quel connubio politica-chiesa tanto controverso, e che un ascoltatore, Luigi da Padova, al 349-238-6666, francobolla, diciamo, fotografa similare a quello che è in Italia. E poi, per chiudere, siamo andati in Bulgaria, dove da quasi 2 mesi manifestanti bulgari chiedono le dimissioni di questo governo, lo accusano di corruzione. E siamo con Francesco Martino di Osservatorio Balcani e Caucaso. Prima di ridargli la parola per raccontare ancora meglio le pieghe di questa crisi, vi faccio ascoltare la fotografia del paese. Situata nei Balcani orientali, la Repubblica di Bulgaria ha una popolazione di circa 7 milioni e mezzo di abitanti, in prevalenza cristiani ortodossi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Bulgaria diviene un satellite dell'Unione Sovietica. Ad oggi è un paese membro dell'Unione Europea e della NATO. La sua transizione verso la democrazia e l'economia di mercato dopo il crollo del comunismo non è facile. Durante i primi anni 90, la Bulgaria è devastata da instabilità politica e scioperi. Anche se la fine del decennio è più stabile, sono pochi i progressi concreti fatti, in particolare riguardo alla riforma economica. La Bulgaria non è tra i paesi invitati ad aderire all'UE nel 2004. Tuttavia, firma un trattato di adesione nell'aprile del 2005 e si unisce nel gennaio 2007. I funzionari dell'UE fissano dei requisiti di accesso difficili, che riflettono le loro preoccupazioni per la corruzione e la criminalità organizzata diffusa nel paese, invitando la Bulgaria ad adottare misure urgenti per contrastare questi problemi e poter così entrare nella zona Schengen. Nel maggio 2013, il partito di centrodestra dell'ex primo ministro Boyko Borisov batte di poco quello socialista nelle elezioni parlamentari. La campagna elettorale è segnata anche da uno scandalo intercettazioni che coinvolge Borisov. Ciò provoca scontri tra manifestanti e polizia. Rimane alta la tensione sociale, che si acuisce e sfocia in un'ondata di proteste a partire dal 14 giugno scorso, quando 10.000 manifestanti sfilano per le strade di Sofia contro l'elezione di Delian Pevski come capo della sicurezza nazionale. Pevski, già noto all'opinione pubblica perché più volte coinvolto in scandali legati alla corruzione politica e delle istituzioni, viene destituito dopo solo 2 settimane, ma ciò non placa l'ira dei manifestanti, che continuano a protestare in migliaia da 50 giorni, senza però destare alcuna reazione da parte delle autorità, ora in pausa estiva e nel pieno disinteresse delle testate nazionali e internazionali. Questi gli ultimissimi avvenimenti, appunto, accaduti in Bulgaria, e mentre la cronaca proprio più recente ci consegna appunto quel simbolico pianoforte e quelle lezioni di yoga fatte lì anche sotto caldo estivo, per tenere la posizione. Yoga by the Barricades titolava Deutsche Welle proprio ieri per raccontare questo aspetto della protesta. Francesco Martino, adesso però è estate, il Parlamento è chiuso per ferie, i governanti se ne sono andati al mare, e la protesta che cosa fa? Va in ferie pure lei? No, la protesta continua e continua attraverso forme piuttosto inusuali, come dicevamo prima. In questo momento appunto il Parlamento è chiuso, anche se forse i deputati dovranno tornare inaspettatamente a lavorare dopo che un paio di giorni fa il presidente Plevne Liev ha posto il veto sull'attualizzazione del bilancio, quindi probabilmente i deputati, loro malgrado, dovranno tornare in aula anche durante l'AFA di agosto, che a Sofia vi posso assicurare è molto forte. Detto questo, i manifestanti, naturalmente a Sofia le strade si sono svuotate, ma i manifestanti continuano a cercare modi per esprimere la loro voglia di cambiamento. Forse la più curiosa e anche faticosa è quella pensata da un gruppo di manifestanti, che appunto ha deciso di marciare a piedi da Sofia fino alle coste del Mar Nero, fino alla residenza di Ersinograd, che è quella dove solitamente vanno al mare sia i deputati che i membri del governo, e con questa marcia di circa 500 chilometri riaffermare la solidità delle richieste e soprattutto della volontà di chi protesta di volere un cambiamento, e nello specifico e almeno a breve termine di volere le dimissioni del governo Reshetsky. Francesco Martino, è più impossibile le dimissioni del governo oppure farsi questi 500 chilometri fino al Mar Nero e fare questa lunga marcia appunto sotto il caldo? Scherzi a parte, il governo è destinato a cadere secondo te? Ma direi che sarei molto sorpreso se il governo riuscisse ad arrivare in fondo al proprio mandato. Oggi buona parte degli analisti ritengono che al massimo il governo possa puntare alla primavera dell'anno prossimo, soprattutto se ci saranno degli accordi politici che possano rendere possibile una richiesta minima da parte dei manifestanti, che è quello di una riforma della legge elettorale, che viene considerata uno dei motivi che impedisce a forze nuove di entrare in Parlamento e nella vita pubblica, politica pubblica della Bulgaria in generale. Quindi direi che in realtà non è impossibile né arrivare a piedi da Sofia al mare né far cadere il governo, anzi probabilmente entrambe le cose accadranno. Entrambe le cose non affatto, niente affatto impossibili. L'ultima domanda riguarda quello che è l'atteggiamento dell'Europa. Mentre appunto si sottolineava che la stampa straniera, la stampa fuori dalla Bulgaria, non segue con particolare passione quello che sta accadendo, l'atteggiamento dell'Europa qual è? Che voci si sono levate? Ma ci sono stati almeno un paio di episodi che qui hanno avuto grandissima risonanza. Il primo è stato la decisione da parte degli ambasciatori di Germania e Francia, quindi due paesi di riferimento all'interno della famiglia europea, di appunto scrivere una lettera a supporto delle manifestazioni e degli obiettivi delle manifestazioni, cosa che naturalmente ha risvegliato l'entusiasmo di chi era in strada, e le proteste nemmeno troppo velate del governo, che ha parlato di una mossa, un'intrusione all'interno di quelli che sono comunque fatti interni alla Bulgaria, alla vita politica bulgara. C'è stata poi una visita che è stata molto importante per quanto riguarda le reazioni che ha provocato della commissario alla giustizia Viviane Reding, che in qualche modo, incontrando i cittadini bulgari Questo fatto tra l'altro ha sottolineato il fatto che mentre il commissario l'incontrava, al governo invece sì. durante tutte queste settimane non ha mai voluto incontrare i manifestanti. In qualche modo anche la Reding ha ribadito l'importanza e la fondatezza delle richieste dei manifestanti, quindi c'è stato una presa di posizione che dal mio punto di vista è abbastanza forte. Naturalmente è difficile aspettarsi che prese di posizione di Bruxelles possano portare in tempi rapidi a cambiamenti politici in Bulgaria. Sarebbe forse in qualche modo anche posso dire un po' naiva, inusuale un po', venga, però certo. Sono parole che comunque pesano. Certo. In tutto ciò forse un punto fermo però, Francesco, lo possiamo mettere: se è vero che la piazza non ha magari una proposta politica ben chiara, sicuramente è nato un nuovo cane da guardia, qualcuno che ha gli occhi puntati sul potere e insomma vigilerà affinché vi sia una riforma della politica bulgara. Questa è la grande speranza di molti in Bulgaria e anche di chi vi parla, nel senso che queste proteste non sono riuscite fino ad ora a portare una alternativa politica chiara. Io però direi che questo è un problema che non riguarda soltanto la Bulgaria, ma riguarda un po' è un problema di tipo globale. Oggi è difficile trovare alternative sia di tipo politico che economico all'attuale sistema. Detto questo, però, in Bulgaria è molto molto importante il fatto che finalmente i cittadini si sentano forti e tutelati abbastanza da scendere in piazza e dire no alle decisioni dei propri governanti che ritengono inaccettabili. E io spero e credo che nel futuro chiunque vada al governo in Bulgaria dovrà tenere molto più in considerazione di quanto abbia fatto fino ad ora la risposta dei cittadini e della piazza. Grazie. Allora, Francesco Martino, ci lasciamo con questo augurio, con questa speranza, ma rimarremo anche noi con le orecchie ben dritte e gli occhi puntati sulla Bulgaria fino a fine agosto. Intanto grazie, buon lavoro, buona giornata. Grazie a voi. E poi in questa puntata tutta europea di Nessun Luogo è Lontano voglio fare un'eccezione, perché lo sapete, io sto male se almeno una volta alla settimana non do un aggiornamento sul Congo. Quale Congo? Congo Kinshasa, ovviamente, Repubblica Democratica del Congo. In particolare andiamo in Kivu, lì dove continua la ribellione del movimento M23. Chi mi segue sa che ho particolarmente a cuore il destino di quella regione. Perché ve ne parlo anche quest'oggi così brevemente? Beh, perché il movimento M23, dopo le tante polemiche derivanti dalla chiusura della loro pagina Facebook, era ospitata da un server negli Stati Uniti e lì si faceva ovviamente propaganda al movimento ribelle, hanno annunciato di fare cosa? Beh, di aprire una radio, Dignité FM, Dignità FM, la futura radio del movimento M23. Staremo a vedere. Pare che insomma la ribellione e la guerra in Kivu si combatta non solo a colpi di Kalashnikov, ma anche a colpi di slogan nell'etere, titoli di coda. E grazie quindi a Mire Locchetti, Isotta Scenna, che hanno curato con me questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, Gianmarco Ferronato che l'ha musicata in tema, ovviamente. L'appuntamento è per le repliche durante il weekend e poi lunedì nuovamente alle ore 13:15, quando di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Intanto un saluto da Gianpaolo Musumeci.